Noi siamo ancora a livelli relativamente inferiori a quelli di altri paesi europei che hanno una storia, diciamo così, di immigrazioni più lunga. Noi non abbiamo un passato coloniale e quindi l'immigrazione è relativamente recente, anzi siamo stati per lungo tempo un paese di emigranti, no? Non dimentichiamocelo. Però è stata particolarmente rapida e da alcuni anni siamo insieme alla Spagna il paese europeo in cui vengono più stranieri, vengono più immigrati. Un'altra particolarità italiana è, anche questa legata al fatto appunto che non abbiamo una storia coloniale, è quella che le nazionalità sono molto estremamente variegate, cioè se lei pensa alla Francia appunto, che in virtù del suo passato coloniale ha una prevalenza di algerini, tunisini, senegalesi eccetera, noi abbiamo un vero e proprio puzzle per così dire di nazionalità, anche se nel periodo più recente prevalgono quelli dell'Europa dell'Est, sia dell'Europa dell'Est comunitaria o neocomunitaria, se vogliamo chiamarla così, sia anche di paesi che ancora non sono nell'Unione come l'Ucraina o la Moldavia. Ormai i cittadini stranieri dell'Europa dell'Est sono circa la metà, diciamo, dei cittadini stranieri residenti in Italia, cioè iscritti in anagrafe. Quanto sfugge? Difficile a dirsi, però per dare un'idea si può riflettere sul fatto che in occasione dell'ultimo decreto flussi circa 700.000 stranieri che al momento non essendo ancora stata data risposta alla loro domanda di regolarizzazione sono da considerarsi a tutti gli effetti regolari, stiamo parlando appunto di 700.000 nel corso dell'ultimo anno che hanno chiesto di essere regolarizzati. Questo è importante sottolinearlo perché forse dovremmo riflettere sul fatto che c'è in qualche modo una distinzione tra l'irregolare che è irregolare per una serie di circostanze ma che aspira alla regolarizzazione, quindi chiede di essere regolarizzato, quindi aspira in realtà a un percorso di integrazione sia lavorativa sia anche sociale. Poi c'è probabilmente una frangia di irregolari che forse dovremmo chiamare clandestini e che non verosimilmente non cerca neanche l'integrazione, e questi sono quelli che poi alla fine creano l'allarme sociale, sono fortemente presenti tra i denunciati per reati contro l'economia, furti, borseggi, scippi e così via. La propensione, per così dire, a deviare, a delinquere dei regolari è sostanzialmente simile a quella degli italiani. La propensione a delinquere, l'incidenza nei reati di questo tipo degli stranieri irregolari invece è molto elevata.